fossi yo, y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Avete mai fatto parte di una setta? Sapete cosa significa entrare in una setta, essere accostati da qualcuno che appartiene a una setta? Beh, qualcosa può essere anche molto suggestivo, anche se poi vi rovinerà la vita, a voi, ai vostri cari, alle persone che vi stanno accanto, probabilmente entrerete in un inferno senza ritorno. Eppure ci sono un'infinità di persone che ogni giorno aderiscono a sette, entrano in delle sette. Le sette serpeggiano, vanno sotto l'humus del quotidiano, apparentemente persone normali come nel film di Rosemary's Baby, ci vedono, ci sorridono, ci guardano, sono affabili vicini, sono simpatici compagni d'ufficio, sono affascinanti colleghi e colleghe, ma in realtà appartengono a una setta, una sorta di marchiatura, di segnatura, qualcosa al di là della loro esteriorità, appartiene a qualcos'altro, a qualcun altro. Hanno fatto un patto profondo, viscerale, che li lega a qualcosa che noi non conosciamo. Questo forse è il senso misterioso, ciò che ci attira, ciò che ci fa sembrare l'appartenere a una setta è qualcosa di esclusivo. Setta è un termine che vuol dire tutto e non vuol dire niente. Già vedo i primi messaggi che mi arrivano su Facebook, che è il primo indicatore del polso dell'opinione generale rispetto a un argomento. Ho chiesto che ne sapete di sette, mi sono arrivati subito due messaggi. L'uno che mi racconta di un suo compagno di classe che dopo che hanno fatto la scuola insieme sta scontando l'ergastolo per una serie di omicidi legato a una setta satanica. E sembra impossibile, un compagnetto di scuola adesso è personaggio pubblico in quanto protagonista di uno dei tanti episodi di cronaca nera legata al settarismo satanico. L'altro che mi fa una puntualizzazione, la faccio subito io in apertura così evito di doverci ritornare spesso, mi dice: ci sono anche organizzazioni cattoliche dove tutti sono convinti di essere veri interpreti della religione, ma sono tremendamente intolleranti e facile la condanna altrui. È vero, anche nell'ambito delle religioni riconosciute ufficiali ci sono delle frange, diciamo, estreme, che hanno alcuni elementi almeno esteriori, almeno costitutivi, almeno nel controllo viscerale stretto negli aderenti a questo movimento, che li fanno assomigliare a delle sette. Non arriveranno a dei parossismi da codice penale, però quando il controllo privato, individuale sulla vita personale, intima, familiare è molto stretto, incrociato, quando si fanno dei grandi auto da fe, cioè delle grandi confessioni pubbliche in cui ognuno mette in piazza le cose di casa sua, quando tutti sono padroni dell'intimità di tutti, quando tutti sentono in dovere di rendere conto del loro comportamento individuale ad altre persone, quando tutti hanno dei comportamenti stereotipati, quando la ricerca non è la propria felicità, la felicità delle persone che ci stanno accanto, ma è seguire i dettami del gruppo, delle persone, ciò che ci dà appunto sicurezza, si appartiene a una setta. Beh, la domanda è questa mattina: qual è la vostra idea delle sette? Che esperienza avete avuto di sette? So che un argomento molto delicato, io tutte le volte che ho parlato di sette mi sono sempre preso qualche querela, perché sono coloro che tengono in mano la coscienza, l'intimità, il raziocinio delle persone, sono molto suscettibili, hanno sempre degli avvocati molto efficienti, a volte basta nominarli, hanno subito una grande coda di paglia, subito metto le mani avanti e ti querelano. Quindi questa mattina evitate se possibile di farmi avere questi noiosissimi strascichi, raccontate, descrivete, ma evitate se possibile di fare riferimenti che potrebbero avere dei risvolti di tipo giudiziario. Vediamo in questo punto, a questo punto, innanzitutto il numero di telefono è lo stesso, anche se parliamo di 7, l'800240024. Vi do la sicurezza dell'anonimato, se volete, vi possiamo contraffare la voce, però raccontateci veramente, che ho visto dei servizi, ad esempio alle Iene qualche sera fa, in cui ci sono delle situazioni che sembravano impossibili da verificarsi, sembravano al di fuori di una normale convivenza con persone che apparentemente fanno delle vite assolutamente inoppugnabili. Eppure dietro c'è qualcosa che non funzionava. La settimana scorsa questa ragazza ci ha raccontato raccontato una storia agghiacciante della sua infanzia. Avevo 5 anni e mezzo all'incirca. La storia di suo padre, che nei primi anni 90 la porta a partecipare a delle messe nere, in cui persone incappucciate praticano riti macabri nel nome di Satana, con pesanti violenze psicologiche e fisiche sui bambini presenti. E racconta anche di infanticidi. Fu messa dentro una cassa, la cassa fu seppellita. In un'abitazione i poliziotti si sono trovati di fronte a due veri teschi. Il gruppo si ritrovava in un collegio abbandonato di Prato o in vecchi cimiteri, comunque in luoghi sconsacrati. Questo naturalmente è il quadro classico. Quando parliamo di setta, diciamo subito setta satanica, le persone che si riuniscono per compiere quel rituale sacrilego e rovesciato rispetto alle liturgie conosciute ufficiali, che è la messa diabolica, la messa satanica. Poi alla fine è sempre un grande pretesto per fare delle grandi ammucchiate, delle multiple ingruppate collettive, con la giustificazione che omnia licet, per la grande legge di Satana, anzi più si fa e più si avvicini al grande patrone Satana. Quindi non c'è nemmeno un intento così profondamente legato al satanismo, molte volte sono dei placidi macellai di paese con un minimo di carisma che hanno capito l'area e non asato l'area, sanno che laddove ci sono delle lacune, dove ci sono dei vuoti, dove la spiritualità non viene più incanalata attraverso percorsi tradizionali e dove c'è una gran voglia di uscire da degli schemi di grigiore quotidiano, si può inventare, costruire, immaginare e essere grandi sacerdoti di Satana. Augusto, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccoci qua. Allora, buongiorno. Ecco, mi piace intervenire su questo tema perché sono stato io in prima persona individuato come una persona appartenente ad una setta. Esistono... L'hanno accusata di essere un... Sì, no, praticamente un sacerdote, sì, di Satana, cosa? No, questo magari no. Ecco, esistono delle... esiste un'attività imprenditoriale che io ho eseguito con successo per circa 10 anni. Il network marketing, che oggi viene studiato anche in economia e commercio in tutte le università. E cosa vendeva? Si può vendere qualunque tipo di servizio o prodotto, però con una metodologia abbastanza nuova. Siccome nell'ambiente c'è un ambiente molto sobrio, un ambiente, diciamo, tra virgolette, allegro, spesso e volentieri chi vede dall'esterno pensa che ci siano, che siano le proprie sette, mentre questo... Ma cosa sono quelle organizzazioni piramidali, nel senso... Allora, ecco, è sbagliato dire questo, mi perdoni se la... Però esistono. Se la dico così. Sì, esatto, allora esistono, come in tutte le attività, i falsari... Sì, ma sono delle grandi sole queste cose, lo sa meglio di me, non è che ci possiamo dire che servono a prendere persone in genere, istigarle ad andare in giro a vendere merci, dicendo farebbero grandissimi... Purtroppo come in qualsiasi altra in qualsiasi altro tema, io credo che occorrerebbe, ma non ne abbiamo sicuramente il tempo per il taglio della trasmissione. Allora, io per fare network marketing con un'azienda statunitense ho studiato per 3 anni, ma studiato però, certo. E poi ho cominciato a mettere in pratica dei sani principi. Poi che ci siano delle aziende che si spacciano per... Questo non lo può negare però. Questo. Oppure delle organizzazioni che si spacciano per, questo senz'altro. Ma ci sono anche ristoranti che danno le sole, sì, sì, o negozi di abbigliamento che danno le sole, o architetti che non sono tali. Diciamo che esiste un principio per cui nell'imprenditoria, esatto, è giusto che chi si mette in un'attività faccia i profitti. Esiste però una forzatura quando... Una forzatura da parte di alcune aziende che, spacciandosi per aziende di network, di network marketing, chiaramente fanno i falsari, appunto. L'importante è che sia trasparente quale sia il reale profitto e quale sia la maniera per raggiungerlo. Sa, io le potrei dare, siccome sono cose di cui mi sono occupato nella mia professione, quando vengono portate le persone in bellissimi castelli in Austria, quando vengono fatti vedere, guarda che bella macchina che mi sono fatto io, ero morto di fame e con questo sistema sono diventato ricco. Si prendono le povere persone ingenue, si mettono in un sistema che alla fine sono soffocate dal desiderio di vendere profumini, saponcini ai parenti, agli amici, e non stanno più, non riescono più a reggere il giro. E poi esistono anche delle forme di coercizione molto forti in alcune organizzazioni che non saranno sicuramente la sua. Quindi lei è stato accusato di appartenere a una setta perché faceva network marketing. Questo ma sì, sia io che noi, però ecco, quello che le volevo dire è questo: mi sono pregiato, appunto, qui in Italia di essere stata una delle prime persone a tenere delle conferenze, non caciara, ma conferenze vere e proprie sul tema, che è un tema, ripeto, economico. E c'è stato anche un tale Sergio Barile, che penso che nell'ambiente di Radio 24 forse si conosce. No, mi spiace, è una lacuna mia.

su cui poi naturalmente affonda il desiderio di andare nella setta. Allora ci fermiamo soltanto un istante, dobbiamo dare la linea alle informazioni della borsa. 800 24 00 24, circoscriviamo l'argomento. Oggi non faremo la mappa delle sette, i satanisti, i post apocalittici e via dicendo, anche perché è materia interessante, ma non ci dà risposta a questa domanda. Diamo l'esempio che esiste un universo affascinante, subdolo, fascinoso, in cui ci si può abbandonare alla più sfrenato culto dei propri sensi, che può anche dare gusto qualche volta, ma in realtà è un grande inghippo che poi non si è più padroni di se stessi. Melog 2.0. Oltre 600.000 adepti. In Italia i soli gruppi satanici sono ormai 8.000 e contano movimenti magici, occultistici, orientaleggianti, satanisti o di matrice pseudo-cristiana. La ragazzina era sottoposta ad un vero e proprio protocollo di iniziazione che prevedeva una scaletta settimanale di prestazioni sessuali ordinate e gestite, si fa per dire, da una triade di spiriti che il falso stregone sosteneva albergassero in lui: Satyricon, Triton ed Edon, e che pretendevano attenzioni speciali di volta in volta sempre più perverse. Tutto veniva svolto attraverso un protocollo di riti esoterici. Sweet 800 24 0024, stiamo entrando un po' più nell'aspetto oscuro dell'aspetto settario, del lato più oscuro dell'aspetto settario, che stiamo trattando questa mattina con Raffaella Di Marzo. Ha scritto 9 religioni e 7, edizione Magi, che è la psicologia di fronte alle nuove forme di culto. L'autrice tende a sottolineare il fatto che esiste sempre qualche grave lacuna, qualche carenza, qualche catena affettiva interrotta o non sufficiente a sostenere le persone, per cui ci sia questa apertura alle sette. Laura, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei è stata lambita da una setta? Sì, il tentativo di cooptazione che è stato fatto nei miei confronti da parte di un professionista, mi sto riferendo... Sì, non mi faccia nomi, che non c'ho voglia adesso di andare dagli avvocati. No, un avvocato, ma sì. È un avvocato, perlomeno un sedicente avvocato, si spaccia come tale, ma credo che sia solo... Come l'aveva sedotta ad entrare nella sua setta? Cosa le aveva promesso? Ma sostanzialmente questi personaggi sfruttano senz'altro la debolezza psicologica temporanea di alcune persone che magari passano dei momenti di difficoltà. Ma lei cosa era successo? No, io l'ho conosciuto casualmente, del tutto casualmente all'interno del tribunale, e fanno leva esclusivamente sul discorso delle prestazioni sessuali. Tutto con la prospettiva di sesso a volontà, orge a piacimento. Cioè l'aveva offerto, sì, diciamo, un paradiso, sì, di... Sì, sì, e con questo meccanismo cercano di cooptare. Ma scusi, lei è una donna, adesso non per dire, mi rendo conto, per un uomo può essere più difficile avverare questo sogno, ma una donna, se vuole, ne trova quante ne vuole. C'ha bisogno di entrare in una setta una donna per togliersi dei capricci di tipo sessuale? Secondo me no. No, ma il risvolto è proprio questo. Il loro meccanismo è quello per cui più sesso fai, più energia acquisisci, diventi padrone di te stesso, sicuro e consapevole delle cose. Male non fa, diciamo, però non capisco, cioè, cosa offriva, qual era, diciamo, il servizio che le offriva in cambio del fatto che avrebbe partecipato a queste orge. L'organizzazione, gli escort e le escort, il catering, qual era il servizio che offriva? Perché se vuole lei sesso ne può fare quanto le pare, chi glielo impedisce? No, ma certamente, però più prestazioni sessuali si eseguivano con i consociati o con questo stesso personaggio, più la persona avrebbe acquisito potenzialità, fiducia in se stessa, la capacità di superare le difficoltà nella vita, perché sesso era uguale a energia e consapevolezza. Ecco, un discorso molto semplice, molto banale, ma sostanzialmente acquisiscono, credo, molti adepti. E lei ha ceduto a questo? No, assolutamente. Ma le risulta che qualcuno che lei conosce sia entrato in questo giro? Che conosco indirettamente, ma quello che volevo sottolineare... A me sembra soltanto un marpione che organizza ammucchiate in famiglia, sinceramente. Sono d'accordo. Comunque non bisogna pensare che questi personaggi appartengano a classi sociali basse o di scarsa levatura culturale, perché, ripeto, questo è un personaggio, si spaccia come avvocato, mi risulta che frequenti moltissimi avvocati in tribunale, assistenti in università, quindi sono anche persone... Beh, guardi, davanti a Piazzale Clodio, posso dire una cosa, Piazzale Clodio è il centro, la cittadella giudiziaria, quindi c'è un sacco di avvocati, aprono e chiudono continuamente una sorta di salone massaggi dove vanno sempre gli avvocati, quindi ogni due mesi lo aprono e poi lo richiudono perché pare che vadano a farsi... Quindi evidentemente c'è una sorta di tensione, capisco, e sotto la toga molte volte batta un cuore, un istinto costretto a avere un contatto così diretto con le mestizie umane, che naturalmente la controparte è questa. Grazie Raffaele. Buongiorno, ecco. Nicoletti. A lei che hanno fatto? Dicevo, siccome sono un estimatore di Gianluca Nicoletti, se posso dire senza ricevere... Sì, ma la mia non è una setta, io non offro niente. Fino a vedere un po' quasi la setta di Facebook di Nicoletti, comunque è difficilissimo entrarci, tra l'altro. Lo so, infatti. No, volevo dire che io mi riferisco... No, però chiariamo subito, non si fanno ammucchiate, niente del genere. No, ma si capisce dallo sguardo che non fate ammucchiate. No, io volevo solamente dire che mi rifò alla sua biografia, o alla tua, senza ricevere... Sì, alla svelta però, che sennò non andiamo avanti. Che al tempo che entrò in Rai, grazie a un finto... Sì, zio arcivescovo. Io... con la sua gentile centralinista mi sono inventato la storia semplicemente perché credevo che la mia affermazione potesse non essere interessante riguardo... Sì, finora non è per niente interessante. Se era qualcosa da dire sulle sette, non ha nulla da dire. Benissimo. Ma quindi era una paraculata per entrare in trasmissione? No, parlo di sette. Allora forza, diamo. Allora io dico che in Italia, forse all'estero, ma in Italia... molto di più, le sette più pericolose, quelle che operano anche apertamente, sono quelle degli ultras, cioè dei tifosi del calcio. Poi c'è anche quelli che non fanno a manganellate e non spaccano le macchine. Sì, ma che c'entra? Guarda, adesso è un altro problema. Ma voi stavate analizzando. Ci sono dei rituali per entrare negli ultras di iniziazione? Ci sono rituali, sono... Ogni domenica ci sono sacrifici di persone e di oggetti e di cose, questo però alla luce del giorno, a differenza delle sette che, come si dice, per antonomasia sono criptate. Questo solo volevo dire, che ovviamente un po' non sa di nulla il mio intervento. Vabbè, allora senza di nulla lo chiudiamo, sennò devo far partire la motosega, poi fa male alle ginocchia. Arrivederci. Raffaella Di Marzio, riportiamo un po' un attimo il punto su quello che noi abbiamo iniziato. Abbiamo dato una piccola sventagliata, ha sentito la nostra avvocatessa che parlava di queste promesse, diciamo che è preponderante nei momenti di affiliazione a una setta il promettere una libertà e uno scatenamento degli istinti che in realtà nessuna religione ammette in maniera così esplicita. È una delle leve di attenzione e di fascino delle sette? Allora, mi sembra di aver capito da quello che diceva quella signora, sì. Non so se ho capito bene, comunque esistono veramente dei gruppi settari molto chiusi e molto anche pericolosi per le persone, all'interno dei quali il sesso assume un significato di tipo esoterico. Cioè fare sesso non è semplicemente sfogare un istinto, ma è liberare dell'energia. E le persone che sono convinte di questo ritengono che questa energia possa dare loro dei poteri sovrumani. Quindi in questi gruppi si fanno delle pratiche sessuali che sono pratiche realmente pratiche esoteriche, guidate di solito da un capo che fa la stessa cosa. E il problema non è il sesso in sé, il problema è cosa si acquisisce attraverso l'energia sessuale, potere, energia e anche alcuni credono addirittura a poteri magici, cioè potere di influenzare il mondo esterno. Sì, esiste tutta una branca delle scienze esoteriche, proprio esiste il tantrismo, esistono, diciamo, c'è una letteratura su questo, ma è chiaro che cogliendo le persone, guidandole, seguendole e avendo un aspetto coercitivo in un momento di forte intimità, è chiaro si acquisiscono delle chiavi di conoscenza di queste persone, è molto più facile manipolarle dopo. Sì, e poi si arriva al punto che alcune di queste persone sono talmente influenzate che ritengono veramente di poter passare attraverso i muri oppure di poter influenzare con la loro mente una persona che hanno a 10 km di distanza. Allora, sentiamo un attimo, abbiamo un altro ospite, il professor Vincenzo Mastronardi, buongiorno, che è già intervenuto altre volte, che è un criminologo e coautore del volume Sette sataniche, dalla stregoneria ai messaggi nella musica rock, ai misteri del mostro di Firenze, alle bestie di Satana, edizione Newton Compton. L'ho fatta stare in ascolto proprio perché, come vede, stiamo entrando nella materia che lei maggiormente ha studiato, il controllo delle masse umane o dei gruppi umani attraverso le parti sensibili, l'emotività e anche il sesso. Dobbiamo tenere presente che noi ce lo dimentichiamo, quindi idee chiare, lì dove le leve su cui tutti quanti i gruppi di questo genere fanno leva, voglio dire, fanno fulcro, sono: uno, la disillusione della società, la disillusione dei rapporti affettivi, una labilità emozionale e paura del futuro che in molti esseri umani esiste, un avvento della cultura della droga, crollo dei valori di quelle che sono le sicurezze in famiglia, quindi familiari in senso. Quindi lato. D'accordo con la sua collega, bisogna sempre vedere prima il perché accade. Sì, un terreno, una labilità emozionale a monte dobbiamo considerare c'è, se non diamo delle piste comportamentali alternative che ognuno poi va a personalizzarsi e a scegliersi di più positivo e di più gratificante, inevitabilmente sono piste di atterraggio su cui può atterrare il cosiddetto rospo satanico, per cui inevitabilmente poi vengono facilmente allettati da quelli che possono essere le false aspettative. Aspettative, appunto, quali i grandi poteri, i poteri magici e il riuscire a influenzare l'altro a distanza. Non dimentichiamo le strategie che adoperano, quale la love bomb, la bomba d'amore, cioè la somministrazione affettiva, per cui quando mai troviamo a disposizione una persona che sta per 24 ore al giorno a totale disposizione nostra, forse un fidanzato, una fidanzata nei primissimi momenti, ma poi cara o da andare a lavorare, poi caro o da studiare, eccetera. Per cui questi invece sono a totale disposizione. Quindi tua. Professore, se dovessimo dare una prima indicazione, anche seppur sommaria, diffidate quando in un momento di particolare sfiga della vostra vita trovate persone che stranamente, improvvisamente, così cadute dal nulla, hanno una dedizione totale e radicale per voi. Questi miracoli raramente esistono nelle frequentazioni umane. Diffidate da tutti coloro che si professano guru, ecco, mi ha colpito una bella frase di un tassista romano, dice: guardi che questi anziché guru sono paraguru, ecco, questo rende molto bene. Sì, perché invece mentre è difficile stabilire il meccanismo in cui si entra nelle sette, cioè, chi organizza la setta è chiarissimo, perché è uno che prende soldi, ha potere, tromba come un disperato, quindi figuriamoci, chiunque vorrebbe farlo, però il prezzo è molto duro per il resto dell'umanità. Naturalmente, ci sono tecniche di avvicinamento, per esempio il questionario test di personalità, si trova su molte bancarelle, quando ci sono in diversi mercati qua o là, ci si avvicina, quindi si risponde a questi test, dopodiché si restituisce il questionario, quando ci date la risposta, venite sabato prossimo al convegno che faremo. E uno è dentro, ce l'ha dentro in tutti, esatto, i sensi. Esatto, un uncinamento. Melog 2.0. Dalla IDA, l'Associazione Difesa degli Animali e dell'Ambiente, arriva un grido d'allarme. Ogni anno sparirebbero almeno 60.000 gatti neri, 7.000 solo in Lombardia, 1.500 a Roma, Milano e Torino. Uccisi durante riti satanici. Non escludo che un certo numero di gatti sia sacrificato, sì. Le sette sataniste ci sono una realtà. Dopo altre città è allarme anche a Torino. Decine di gatti neri spariti in pochi giorni. C'è chi parla di riti esoterici. Da qualche giorno i gatti neri sono di nuovo sotto tiro. Professor Vincenzo Mastonardi, criminologo e esperto in sette sataniche. Sono dai una leggenda metropolitana, una fantasia gattara, o corrisponde a realtà che compaiono gatti neri per fare rituali satanici? No, in realtà ci sono i rituali satanici in cui i gatti servono comunque materiale animale. E non se ne può fare a meno, quindi, chiaro. Sì, perché sono i riti che non sempre vengono effettuati, ma comunque che hanno a che fare con la necessità di repertare sangue e repertare tutto ciò che poi può essere utile per allestire, quindi scenograficamente, proprio una serie di pratiche e di credo che con piena piena capacità, possibilità di contagiare quindi quanti intorno, poi dopo in musiche ululati, nenie, si sentono completamente poi dopo in balia di qualcosa che sicuramente di magico deve avvenire. Questo è il clima che Senta, questo che mi chiedeva Fabrizio Intonti, sì, e Alessandro, sì, Chiappini, che sono i miei colleghi qua alla radio, sì, ma perché viene sempre tirato fuori il demonio? Io ho risposto, vediamo se è corretto, perché riferirsi a un universo di valori satanici permette di scatenare tutte le cose che danno gusto, si possono fare tranquillamente, senza problema. Beh, la ricerca transgenerazionale di trasgressione, cioè da una generazione all'altra, noi abbiamo avuto noi stessi quando avevamo 13-14 anni la volontà di affermarci e di autonomizzarci rispetto alla famiglia, insomma, chiedendoci chi sia o chi sono, cosa voglio e dove vado. Ecco, quella ricerca del riuscire a fare cose strane è una ricerca quindi appunto di trasgressione quasi fisiologica a quell'età lì, a 13-14 anni, lì dove persiste ovviamente la trasgressione non avrebbe supporto se non appellandosi a qualcosa di non abituale, ma che già nell'inconscio collettivo è vissuto come la cosa diversa, il diverso, l'entità comunque che può condizionare persone, cose e situazioni. Ecco, e quindi la necessità di appellarci a qualcosa che ci sostenga nelle diversità, lì dove si ha bisogno di connotarci con una trasgressione. Sentiamo adesso, grazie professore, sentiamo Armando. Armando, buongiorno. Buongiorno, a me mi è costato il primo matrimonio. L'hanno portato via la moglie? Sì. E com'è successo? È successo che cioè, delle amiche l'hanno introdotto su questo gruppo paleocristiano, sai, che quelle che si di... Non lo so, comunque, vabbè, paleocristiano, vabbè. E cosa le hanno fatto? E niente, questo personaggio pretendeva di mettere bocca su tutta la nostra vita privata. Quindi se dovevi acquistare una casa dovevi chiedere il parere a lui, se doveva essere vicino o lontano, dove era questo tipo... E lei doveva subire questa cosa in famiglia con la moglie, che ogni cosa la riportava al suo capo spirituale? Sì, anche sulla vita intima, diciamo. Ah, doveva dire, cioè ogni l'intima d'azione doveva passare per la volontà del padre spirituale? Sì, perché doveva essere solo, come diciamo, finalizzata alla procreazione. Sì, vabbè, solo il fatto uno debba raccontarlo a un altro, già mi sembra che c'è qualcosa che non va. Appunto, una volta stabilito il principio, cioè l'indagine preventiva, ma nessun prete lo chiederebbe. Magari dopo uno dice, padre, ho peccato, l'ho fatto per lussuria. Penso, immagino, ma prima no, dice, padre, la posso dare a mio marito. Mi sembra assurdo. Beh, è appunto per quello che mi è saltato il matrimonio. Vabbè, secondo me non ha perso niente, guardi. È stato fortunato alla fine, no? Vabbè, oddio, perdo una persona che amavi. Lo so, dispiace, però anche la persona che amavo, se sua moglie si è messa in questo... Cosa ci guadagnava sua moglie in questo? Cosa le mancava per entrare in questo meccanismo, secondo lei? La serenità, credo. Nel senso che diceva di trovare una serenità interiore che a vita esterna non gliela dava più. Probabilmente, guardi, io non voglio fare lo psicologo né rubare il mestiere a nessuno, ma... Delegare a un'altra persona tutte le proprie scelte significa non aver più nessuna responsabilità sui propri atti. Quando c'è una persona che ci dice tutto, forse certi individui vogliono avere un padrone assoluto in ogni loro espressione. Sentiamo un attimo su questa cosa, Raffaella Di Marzo, cosa da dire, che mi sembra un caso interessante. Sì, dunque, il problema è questo, la setta dà tutte le risposte. Quando una persona non ha serenità, come in questo caso, e la ricerca, all'interno di quel gruppo si fida ciecamente di chi ne è a capo e qualsiasi problema, qualsiasi dubbio, qualsiasi difficoltà delega e continua a delegare fino a che alla fine non decide più nulla. Questo da una parte toglie alla persona la libertà, dall'altro dà il notevole vantaggio di eliminare lo stress dall'esistenza, che è una delle cose che ci fa soffrire di più. Ma uno non deve scegliere più, sta tranquillo. È sereno, cioè... è veramente è una sorta di serenità che alcune volte assomiglia a quella che è di una persona che si è appena drogata. Alcune volte si sente dire: ma questi prendono droga. Io posso assicurare che non è vero. Ci sono alcuni gruppi dove si usano queste sostanze. Diciamo che lo psicofarmaco so che certe volte viene consigliato in maniera impropria. Ma guardi, sono pochi i casi, perché in questo caso invece a livello psicologico funziona tutto benissimo, come se fosse una medicina, perché il nostro cervello reagisce anche a questo, no? E, per cui dico, è questo, la serenità interiore di essere finalmente in pace. Allora, grazie Raffaele Marzo. Siccome vedo che ci sono molte persone che chiedono ancora risposte, io tornerò presto su questo argomento e probabilmente richiameremo anche lei, così ci sarà prezioso supporto nell'analizzare quello che è il motivo per cui ci si abbandona tante sette. E rassicuro quelli che stanno scrivendo, avendo sentito il nostro ascoltatore, Melog non è una setta, però è qualcosa che assomiglia. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22.